Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Ho una proposta per voi. Tra i vari appuntamenti che organizzate per trascorrere le vostre giornate a casa, segnatevi che dalle 10.30 alle 11 c'è Obiettivo Salute con voi in diretta. La vostra salutare ossessione quotidiana, la vostra Nico, non vi lascia. E quindi ogni giorno, insieme a tanti esperti, entrerò nelle vostre case con uno spazio di approfondimento, commento, indicazioni, suggerimenti. È vero che sappiamo tante cose, ma come si dice, c'è sempre da imparare. Ma non finisce qui, perché sulla nostra pagina Facebook, la pagina di Obiettivo Salute, troverete ogni giorno tanti contributi dei nostri esperti, degli amici della trasmissione. Vi faccio qualche esempio: le favole di Anna Lavatelli, i consigli di Alberto Pellai per il nostro benessere emotivo, le ricette del nostro medicuoco quasi cuoco. Ma ogni giorno ci saranno delle novità. Quindi appuntamento dalle 10.30 alle 11, Obiettivo Salute con voi in diretta con voi e sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute. Una buonissima giornata da Nicoletta.